Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Nuovo appuntamento con il mondo della scuola, ancora ben trovati come sempre da Mirko Cavallini in studio e di Daici in regia. Torniamo in aula oggi dopo esserne usciti idealmente nelle scorse puntate, ci torniamo grazie ad un insegnante, Daniela Zorzenoni, che insegna alla scuola primaria Leonardo da Vinci di San Donna di Piave nell'istituto comprensivo Nievo. Benvenuta. Buonasera. Grazie, ben trovata. Allora, con lei parliamo del suo ruolo di insegnante, ma anche della sua duplice veste di socia dell'IART, giusto? Un'associazione che abbiamo già conosciuto. Ci ricordi sinteticamente chi è l'IART? L'IART è un'associazione spettatori nata nel 1954, è una onlus, quindi un'associazione culturale fondata sul volontariato, che è anche accreditata per la formazione degli insegnanti e degli educatori nella scuola, che li forma appunto alla lettura del linguaggio mediale, di nuovi media, e anche tutela i minori nella visione di questi programmi, della rete internet e di nuovi media. Eh sì, perché quando è nata c'era solo un canale televisivo e un canale radiofonico, adesso invece... Sì, infatti è nata per radio e TV, no? Certamente. Adesso si è allargata. Si è adattata con i nuovi mezzi. Alla modernità. Ebbene, sono tante le iniziative appunto che promuovete come associazione, questa appunto ha un duplice nodo che la vede come centro, insomma, come socia, come insegnante. Un progetto che è partito quando? È un progetto che è nato casualmente al convegno di Rimini di alcuni anni fa, è stato presentato attraverso le proposte per le varie scuole un DVD, Mystery After Mystery, che racconta mistero dopo mistero, è la sindone raccontata ai ragazzi. È stato visto da alcune nostre responsabili, è piaciuto molto, l'hanno portato a San Donà, l'abbiamo esaminato assieme e mi ha emotivamente molto coinvolta, un po' per il linguaggio molto accattivante e poi anche per il rigore che aveva storico nel ricostruire il percorso della sindone. Ci siamo messi al lavoro, io con altre due colleghe, e abbiamo steso un progetto. L'abbiamo presentato a settembre alle varie associazioni culturali di San Donà, poi l'ho proposto alla mia dirigente e l'abbiamo messo in pratica nella mia scuola, che è appunto la Leonardo da Vinci, e lo stiamo seguendo con la collaborazione anche degli insegnanti di religione per dare un taglio anche religioso, non solo storico. E la classe quinta però si vede anche poi protagonista della fase finale, quella dello spettacolo. E ci arriveremo, insomma, esatto, perché tra alcuni giorni si arriverà al coronamento di questo percorso che ha occupato tutto l'anno scolastico. Esatto, allora. Sì, è partito all'inizio d'anno, a ottobre-novembre, è stato suddiviso in varie fasi, ogni fase doveva risolvere un dubbio, un quesito, si vedeva il DVD, che sono 26 episodi della durata di 2 minuti ciascuno. Abbiamo fatto la lettura delle immagini attraverso appunto i punti chiavi dell'IART, col primo piano, il secondo piano, la luminosità, l'atteggiamento dei protagonisti, insomma. Ho fatto la lettura di immagini e poi da lì l'approfondimento, la ricerca, l'indagine scientifica e tutto quello che richiedeva l'episodio, insomma. Ecco, vorrei che ci soffermassimo su questi punti chiave, lei li ha citati, ma insomma sì, andrebbero bene anche per, non solo per i ragazzi a cui avete proposto questo progetto, ma andrebbero bene un po' per tutti, no? Le attenzioni, le chiavi di lettura con cui bisognerebbe guardare, che ne so, un telegiornale o qualsiasi programma televisivo, lì dove c'è l'immagine evidentemente, noi l'immagine non ce l'abbiamo, abbiamo solo la voce. Per quanto riguarda l'immagine è diverso il discorso della lettura dell'immagine da quello del quotidiano, no? Perché nel quotidiano è l'impostazione anche dov'è l'articolo, nella pagina, poi proprio il linguaggio giornalistico, il contenuto, eccetera. L'immagine è quello che ci appare davanti, quello che vediamo a colpo d'occhio, e quello invece che vediamo osservando i particolari. I particolari si ricavano dal primo piano, il secondo piano, la luminosità, l'atteggiamento. Poi ci sono, per esempio, in questo DVD in particolare c'è una musica di inizio e di fine che i ragazzi hanno subito memorizzato e che è piaciuta tantissimo, e quello fa un po' da punto conduttore. C'è questo investigatore che poi noi abbiamo rubato come protagonista, con questa lente di ingrandimento che va a vedere, che va a scoprire, che è accattivante per i ragazzi, un amico, un compagno in questa ricerca, insomma. Nel corso della settimana, delle ore di lezione, come l'avete proposto? Allora, noi ci siamo divisi praticamente a seconda delle discipline che noi facciamo. Io, siccome tratto la matematica e le scienze, mi sono tenuta gli episodi e le esperienze relative alla scienza, quindi l'esperienza della fotografia, quindi abbiamo fatto lo studio della fotografia, l'occhio, il negativo, il positivo, poi il discorso del carbonio 14, come è stato, come sono, l'abbiamo letto il quotidiano, è venuta una collega a dar una mano, anche per dare a volte anche l'intervento di un'altra persona serve ai ragazzi, per dare quasi più autorevolezza a quello che si fa. Arriva un'altra persona, te lo spiega con linguaggio specifico, e abbiamo fatto lettura del quotidiano proprio a questo proposito. La collega di religione ha scelto quegli argomenti che avevano rispondenza nei Vangeli e quindi con la religione. La collega di italiano ha tenuto più quell'aspetto umanistico di ricerca, e quindi ha fatto tutto un discorso anche sulla poesia, hanno inventato poesie, storia, tutto il percorso storico e geografico con la cartina, perché questa sindone è stata un po' vagabonda, sì, ha viaggiato, e quindi è stato un modo anche sulla cartina di vedere e studiare questi paesi, insomma. Ci siamo divisi così, insomma. Un percorso interdisciplinare interessante, appunto, sul quale torniamo tra pochissimo dopo la prima pausa. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Se fosse facile fare così, poterti dire già quello che so, farebbe freddo in un attimo che passerà. Su tutto ciò che ora parla di noi, rabbia, illusioni e speranze che so, detonazioni di un attimo che passerà. E rimarrà forse il vuoto di noi, a disarmare i rimpianti che so, per ricordarci in un attimo che passerà. Sugli edifici, sui cieli di noi, sulle stagioni e sui nostri perché, nuvole rapide un attimo che passerà. Oh, Se fosse facile fare così, poterti dire già quello che so, farebbe freddo in un attimo che passerà. Su questi anni e sul cielo di noi, sulle ragioni dei nostri perché, nuvole in corsa in un attimo che passerà. E rimarrà forse il vuoto di noi, a disarmare i rimpianti che so, per ricordarci in un attimo che passerà. Sugli edifici e sui cieli di noi, sulle stagioni e sui nostri perché, nuvole rapide un attimo che passerà. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Insieme con questa puntata dal mondo della scuola che ci fa scavalcare il mese di maggio e il mese di giugno, e poi andremo verso la conclusione del nostro percorso annuale, come si concluderanno tra pochi giorni anche le lezioni, fatti salvi gli esami per chi li deve fare evidentemente nei vari livelli di istruzione. Abbiamo in studio oggi Daniela Zorzenoni, che è insegnante alla scuola primaria Da Vinci di San Donà di Piave nell'istituto comprensivo Nievo. Ha proposto e ha realizzato insieme ad altre colleghe, con alcune classi, due quarte e una quinta, un progetto pensato e proposto dall'AIART, Associazione dei Radiotelespettatori, che ha riguardato la sindone, la sacra sindone, di cui si è tornato a parlare tra l'altro qualche settimana fa in occasione della Pasqua. Quindi vi è andata bene, insomma, quest'anno c'è stata l'ostensione straordinaria. Credo sia stata anche un'occasione di riprendere anche la cronaca di quei giorni, quando il Papa stesso aveva mandato un messaggio, no? Difatti abbiamo invitato i ragazzi, era il Sabato Santo, ad assistere alla trasmissione, era in Eurovisione, una cosa del genere. Ecco, i ragazzi hanno assistito, qualcuno è stato anche con la famiglia a Torino, cioè poi ha riferito l'esperienza fatta, e i giornali hanno pubblicato di nuovo delle ricerche, degli articoli a riguardo, e quindi ci ha offerto l'opportunità anche per riprendere in mano la lettura del quotidiano, quindi. Ed è stato un aiuto in più, insomma. Una tappa in più in questo percorso, appunto, sì. Che come dicevamo è stato interdisciplinare, si è sviluppato con vari insegnanti all'interno del percorso didattico di quest'anno, sviluppando, come ci diceva prima, tutti i capitoletti in due minuti ciascuno di questo DVD. Quindi è stato proprio sminuzzato anche, no? il contenuto. Nel percorso poi, quali sono stati i punti che magari hanno suscitato maggiore interesse e quali maggiori difficoltà da parte dei ragazzi? L'interesse, la curiosità è nata soprattutto per quanto riguarda la ricerca, e quindi il discorso dei pollini che avevano diversa provenienza, questa provenienza testimoniava i luoghi in cui era passata la sindone, li ha molto incuriositi, li ha affascinati e hanno voluto andare a fondo, abbiamo fatto diverse letture. Poi una cosa invece che li ha appassionati, però è stata un po' difficile, è stata la controversia del carbonio 14, quando hanno prelevato il pezzo di tessuto della sindone, è stato esaminato, perché poi abbiamo letto anche tanti articoli in cui si vedeva che doveva essere fatta indipendentemente, in gran segreto, invece fra di loro i laboratori hanno parlato, non si sa, e quindi non è stata un'attestazione proprio certa, ecco. Poi sembrava che avessero preso un pezzettino di bella, sì. Insomma, e questo li ha un po' disorientati anche, però li abbiamo ricondotti al tema centrale, che non era quello di provare o meno la veridicità di questo telo, ma era quello di accostarci a questo mistero di fede, di storia, e per scoprire poi il volto di Gesù. Difatti abbiamo invitato a marzo il professor Bonora, che è un salesiano, un sindonologo, e ha fatto una bellissima lezione sia ai ragazzi che ai genitori e agli adulti che volevano sentirlo. Insomma, ha fatto questa lezione dove ha spiegato e ha illustrato e ha spiegato anche le presenze nella sindone, le tracce lasciate, il volto, cosa significa icona, ha dato delle chiavi di interpretazione e di lettura ai ragazzi molto importanti, anche se a volte un po' difficili. Beh, però, certo, parliamo sempre di quarta e quinta elementare. Esatto, no? Esatto, però hanno ascoltato con attenzione, poi hanno chiesto, sono andati a vedere i significati, e quindi poi in classe è stato un ulteriore lavoro di approfondimento, insomma. Ecco, quindi anche loro ci lavoravano magari con delle ricerche ulteriori assegnate. Certo, mm-hmm. Certo, e anche devo dire le famiglie si sono dimostrate molto collaborative, hanno seguito i ragazzi, hanno fornito anche di materiali, li hanno aiutati in questa ricerca, poi hanno portato a scuola, poi a scuola è divenuto patrimonio della classe e quindi hanno condiviso con i compagni. Anche questo momento è stato molto importante e formativo, soprattutto, no? Questa condivisione, questo mettere a disposizione degli altri quello che io trovo, è un modo per avvicinarli di più e vincere anche certe differenze, certe rivalità, che è naturale che, è ci, naturale sia. Che ci sia una classe, specialmente la nostra, che è una classe numerosa, perché sono 25 ragazzi. Uh-huh. Insomma, è significativo anche questo, come il fatto, lo dicevo a microfoni spenti, che anche le provenienze culturali e territoriali delle famiglie dei ragazzi, magari sono nati a San Donà, però i genitori vengono da chissà dove. Esatto, sì, perché nella classe abbiamo due alunni di provenienza straniera, diciamo così, non italiana, però sono ragazzi effettivamente che sono nati qua, ma i genitori sono venuti qui in Italia per lavoro, insomma. E quindi anche questo è stato uno scambio ulteriore. Mm. Il percorso andrà a concludersi tra poco, dopo la conclusione ufficiale dell'anno scolastico, dopo anche il ballottaggio a San Donà, esatto, di Piave, c'è, esatto, anche quello. Sì. Il 13 giugno alle ore 21 al teatro, il Centro Culturale Leonardo da Vinci, i ragazzi metteranno in scena proprio questo loro percorso. A scuola c'è un fermento, una vivacità, perché cercano di migliorare la loro performance, si stanno studiando le loro parti e cerchiamo di fare anche un racconto che non sia attendibile, storico, chiaro, questo sicuramente, però anche un po' in chiave ironica, un po' spiritoso, perché abbiamo messo in scena le monete, i pollini, c'è l'investigatore con la lente che cerca sempre nuovi indizi, c'è il poliziotto e ci sono dei balli ebraici che richiamano un po' l'atmosfera anche di quel tempo. Abbiamo cercato di adoperare tutte le vie di espressione dei ragazzi, la musica, il canto, la danza, la mimica, tutti i linguaggi, la voce. 13 giugno, poi lo ricorderemo in chiusura, ultima pausa e poi torniamo. Dal mondo della scuola. Time, 'cause everything is out there. and there's no limits out there. We could be reaching out for anything if we try enough. Let the daylight in on a better day. It's been too long we've been living under a rain cloud. Daylight in on a better day. It's been too long we've been living under a rain cloud. There ain't no point holding back desire. Still gonna get you. Strangers on a train driving through the night soon overtakes you. If someone feels the same as you, you might as well just do what you wanna do. There ain't no point holding back desire. Don't waste your time, 'cause everything is out there, and there's no limits out there. We could be reaching out for anything if we try enough. Let the daylight in on a better day. It's been too long we've been living under a rain cloud. Daylight in on a better day. It's been too long we've been living under a rain cloud. Out there, and there's no limits out there. We could be reaching out for anything if we try enough. Let the daylight in on a better day. It's been too long we've been living under a rain cloud. Daylight in on a better day. It's been too long we've been living under a rain cloud. Daylight in on a better day. It's been too long we've been living under a rain cloud. Daylight in on a better day. It's been too long we've been living under a rain cloud. Ultima parte di questa puntata dal mondo della scuola. Stiamo raccontando un progetto che ha approfondito un DVD edizioni San Paolo Rai, se vedo bene, eccolo qui, grazie, Mystery After Mystery, la sindone raccontata ai ragazzi, un percorso che ha coinvolto due classi quarte e una classe quinta a San Donà di Piave e che porterà il 13 giugno ad una rappresentazione che voi stessi avete inventato, giusto, Daniela? Sì. Zorzenoni, che ha coordinato un po' insieme ad altre persone questo progetto. Avete reinventato un canovaccio? Sì, ci siamo trovate a tavolino, siamo tre colleghe che abbiamo collaborato molto a questa storia, abbiamo creato la trama, poi la collega di italiano ha curato particolarmente le danze e i dialoghi, e tenendo i personaggi che abbiamo copiato, diciamo così, per tenere anche un filo conduttore con i ragazzi, abbiamo tenuto quello, però abbiamo creato dei dialoghi, delle situazioni diverse, insomma, a modi di storia, di filo conduttore. In modo che chi viene, cioè penso soprattutto ai genitori, parenti, certo, nonni, certo, eccetera, abbia un'idea chiara di quello che noi abbiamo fatto e del percorso soprattutto che i ragazzi hanno fatto, perché è stato un percorso di crescita, di ricerca, di consapevolezza, di appropriarsi di determinate chiavi di lettura. È stato un percorso secondo me molto formativo, ecco. Ecco, a proposito di questo, oltre poi alla specifica realizzazione, e come diceva prima, insomma, sta già salendo un po' la febbre, no? Perché ovviamente vogliono anche mettere in scena quello su cui hanno lavorato per tutto l'anno. All'inizio parlavamo proprio dei codici del linguaggio, della capacità di leggere di leggere un'immagine. Sono riusciti a svilupparla nel corso di questi 8 mesi di lavoro? Devo dire che i ragazzi non è che sia un percorso completamente nuovo per loro, perché fin dalla prima noi in collaborazione con l'IART abbiamo fatto un progetto di alfabetizzazione dei linguaggi, dei nuovi media, e quindi un anno il fumetto, un anno il cartone animato, il linguaggio della pubblicità, un po' erano educati a questa attenzione. Naturalmente quest'anno c'è stato il culmine, anche perché è stato un progetto molto consistente, ha richiesto tempo, energia, lavoro di più insegnanti insieme, e ha visto anche una certa maturazione dei risultati, un po' perché siamo arrivati anche in quinta, i ragazzi maturano e cominciano anche a dimostrare quello che hanno imparato, no? Abbiamo dato tante strade, tante opportunità, adesso ognuno in base alla propria indole, alle proprie capacità sta tirando fuori il meglio di sé, si spera, no? Quello che in questo momento riesce. Per noi la soddisfazione è grande, perché io dico la verità, l'altro giorno ho visto un'anteprima di queste prove, e tra l'altro sono riusciti anche a provare poco in questo periodo, e mi ha emozionato tantissimo vedere l'impegno, vedere come avevano, perché mettono proprio il cuore in quello che fanno, no? Come impersonano questi personaggi, come hanno interiorizzato anche tutte le vicende. È stato molto emozionante, e spero che anche chi verrà ad assistere allo spettacolo senta queste emozioni, queste vibrazioni, insomma. Allora, il giorno di Sant'Antonio, giovedì 13 giugno alle 21 al Teatro Da Vinci di San Donà di Piave, che titolo ha alla fine questa serata? Noi l'abbiamo chiamato La Sindone, una realtà misteriosa. È il titolo del progetto, abbiamo mantenuto questo. Comunque è La Sindone raccontata ai ragazzi. Devo ricordare la collaborazione di tutti i genitori che ci hanno sostenuto sia economicamente che collaborando, perché hanno creato, hanno aiutato i ragazzi a crearsi i costumi, le scenografie, che sono essenziali, però richiedono lo stesso un lavoro e un costo. E la mia dirigente, che è stata sempre a fianco, che ha collaborato e che ci aiuta dandoci gli spazi e i modi per realizzare questo spettacolo, insomma. Avete già qualche idea per il nuovo anno scolastico? Beh, per il nuovo anno scolastico questi andranno alla scuola media, faranno altri progetti, e io mi trovo con due seconde, perché quest'anno avevo anche due prime, e vedrò di impostare anche con loro sicuramente un progetto dell'IART che sviluppi un po' la criticità, il vedere le cose chiedendosi il perché, e chiedendosi anche ma è giusto o non è giusto, e non passivamente subendo tutto. Questo trovo sia fondamentale. Ed è fondamentale appunto perché poi è nelle finalità proprio dell'associazione dell'IART, oltre che in generale, insomma, nelle finalità degli educatori, degli insegnanti e dei genitori. Allora, con questo noi vi auguriamo in bocca al lupo, perché davvero va fatto nel caso degli spettacoli. Ricordiamo, ore 21, Teatro Da Vinci di San Donà di Piave, il 13 giugno questa rappresentazione sulla Sindone, una realtà misteriosa. Grazie a Daniela Zorzenoni, e tramite lei grazie a tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto. Grazie a lei. Grazie a Didalci Regia, a voi per l'ascolto, da Mirko Cavallini, appuntamento con Il Mondo della Scuola, come sempre, fra 7 giorni. Dal Mondo della Scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.